Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ho deciso di trascorrere questi 4 giorni di vacanza in Engadina, dove prima della separazione passavamo le vacanze invernali. Anche tu però, vai in Valtellina, vai sulle Dolomiti, no, in Engadina. Era una prova che dovevo superare. Mi chiamo Donata, vivo Cantù, ho 49 anni e faccio la copywriter in una piccola agenzia di comunicazione. Provate a pensare se sono più i momenti che vi siete goduti o quelli che vi siete persi. A tutte le volte in cui avete recriminato per esservi lasciati fuggire un'opportunità anche piccola, ma piacevole. Ci sono momenti che non tornano, che sono solo lì, in quell'attimo presente. E se non vuoi fare diventare passato o magari solo la speranza del futuro, devi starci in quei momenti. Una volta ho incrociato lo sguardo di una ragazza che avevo lasciato andare e che poi ho avuto la fortuna di incontrare anni dopo. E sono stato molto fortunato, ma non sempre funziona così. Se siete stati così vicini a un momento di piacere e non ve lo siete fatti scappare, oggi è la puntata perfetta per voi. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma è Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia. In questa nuova versione che è partita col nuovo palinsesto, cioè da lunedì, di fatto siamo uno zic più corti, come ci piace dire, quindi diciamo è più concentrato il programma. Abbiamo questi 30 minuti tutti a disposizione nostra e quindi anche vostra per raccontare, per fare quello che continuiamo a fare di fatto da 2 stagioni, questa è la terza, cioè raccontare la storia di una persona. Un episodio che racconti qualcosa di voi. Oggi è la storia di Donata, che racconta un episodio. Guardate, mi sembra anche strano dirlo, però di fatto è un piccolo atto di coraggio quello di Donata, perché esce allo scoperto in un modo in cui soprattutto le donne non hanno tanto la possibilità di fare, e cioè di raccontare: guardate, ero lì, è successa sta cosa e me la sono presa al volo. Ha avuto seguito, non ha avuto seguito, aveva senso, non aveva senso, questo è veramente meno importante. 349-238-6666, avete capito esattamente, non fate finta di niente, parliamo di quella roba lì oggi, parliamo di attimi di sessualità presa al volo, diciamo, no, com'è che l'avevamo chiamato? Sesso all'improvviso l'avevamo chiamato addirittura nella scaletta di oggi. Sì, sono degli incontri che avvengono in maniera non programmata, che sono probabilmente fuori dalla scaletta quotidiana, dalla routine quotidiana o anche dalla routine della propria vita in generale, e che accadono per un motivo o per l'altro, perché sei lì in quel momento, in quel luogo, e incontri quella persona e decidi di non fartela scappare. 349-238-6666 per gli sms, c'è il profilo Facebook e c'è il profilo Twitter, che sono Voi siete qui R24 o Voi siete qui Radio 24. Mauro ha già scritto sul profilo Facebook: ho incontrato una ragazza durante una gita di lavoro. Che dice, cos'è una gita di lavoro? Una di quelle cose motivazionali, ok, che fanno oggi le aziende per unire il personale. Eravamo a metà strada di un ponte tibetano e le ho detto che era bellissima nonostante la faccia terrorizzata. La notte l'ho trascorsa in camera sua. Saverio, non lo racconto mai perché gli amici non mi crederebbero, ma sono andato al concerto di un gruppo svedese che adoro. La cantante è bellissima e quando mi ha guardato dal palco mi ha sorriso, ho pensato che facesse parte dello spettacolo. Poi, alla fine del concerto, ci siamo incontrati a bere una birra al bar. Io voglio immaginarmi, Saverio, visto che non racconti con nessuno, e che questo sia tipo un gruppo svedese indie, di quelli che so, fa 150 persone, non 50.000. Paola, certo che mi è successo. Ero al mare, alle Maldive, con 2 amiche. Non era un gran periodo della mia vita e in quella vacanza incontrai un americano che lo rese migliore, nonostante lui fosse sposato. Ecco, non entriamo nel merito, rimaniamo però lì, rimaniamo su attimi di piacere legato alla carnalità che vi sono capitati e che avete preso al volo. 349-238-6666. Questa qui è la storia di Donata. In franchi o in euro? Prima o poi dovrò chiederlo a qualcuno che se ne intende se quando usi la carta di credito in Svizzera è più conveniente pagare in franchi o in euro. In franchi. 20 franchi e mezzo, neanche tanto. In confronto alla salassata di ieri con i massaggi, oggi mi va di lusso, anche se questa vacanza mi sta costando 1/2 stipendio. Mio figlio, 13 anni, passa dal padre la fine delle vacanze natalizie. e io non ho voluto restare a casa al giorno dell'Epifania sola come una befana. Mio marito mi ha lasciato da un anno esatto, dopo una vita passata insieme. E il 2011 appena terminato è stato il mio annus horribilis. Non che non avessi avuto giorni difficili in passato. Mia mamma è morta 20 anni fa tenendomi la mano. E neppure dopo è stato sempre rose e fiori. Ma ho superato tutto col tempo e con un po' di rassegnazione. Forse perché ero più giovane. Forse perché non ero da sola. E così, da sola, ho deciso di trascorrere questi 4 giorni in Engadina, dove prima della separazione passavamo le vacanze invernali e parte di quelle estive. Anche tu però. Vai in Valtellina. Vai sulle Dolomiti. No, in Engadina. Era una prova che dovevo superare. Ho deciso di andare in Engadina perché è un posto che amo, che amavo, dove andavo a fare le vacanze, a trascorrere le vacanze con la mia famiglia, e ho deciso di ritornarci in quel momento, in quel giorno, da sola invece, dopo la mia separazione, un po' per esorcizzare i ricordi probabilmente, per ricominciare e per vedere se l'amavo ancora. Fare le vacanze da soli non è facile. Devi rompere l'imbarazzo, tuo, degli amici e di quelli che ti vedono in giro da sola. Quando sei da sola, hai la presuntuosa sensazione che tutti ti guardino, che tutti si accorgano e si domandino che cosa ci fai lì da sola. Che sei una sfigata che nessuno vuole, che tutti hanno ripudiato, come se davvero tutti non avessero niente di meglio da fare che guardare te. Senza mio figlio, che sta crescendo e si è occupato fin troppo della mamma, senza amici, ho evitato di chiamare anche quelli che mi hanno cercato più volte, rischiando anche di fare la figura della stronza incontrandoli per caso. E sono qui persino senza Marta, il nostro vecchio Golden Retriever, che nonostante 15 anni suonati, un soffio al cuore e una brutta caduta in un burrone ghiacciato, si diverte ancora a nascondersi nella neve. No, volevo prendermi cura di me. Passeggiate silenziose, un po' di shopping, musei, terme e massaggi. Anche se nella mia stanza doppia uso singolo, che non si capisce se la chiamano così apposta per sottolineare che sei una sfigata, mentre mangio un panino davanti alla TV, mi domando se è stata davvero una buona idea venire qui. Now I know that you may go, I don't wanna face the change. We are high over the rainbow, I don't see any lullaby. Now I know that you may go, I don't wanna face the change. We up high over the rainbow, I don't see any lullabies. Sto entrando in sauna. La sauna di Pontresina non è elegante come quella dei mega alberghi della zona. Io però mi trovo a mio agio proprio per l'atmosfera rilassata e senza pretese. Aprire le porte della sauna, di quella sauna, è come entrare in un altro mondo, dove le persone di entrambi i sessi girano nude senza malizia né vergogna. Dove ti siedi a sudare senza veli vicino a uno che per strada non avresti salutato e forse nemmeno guardato. Dove riconosci i pochi italiani perché, come te, le prime volte, sono gli unici ad aggrapparsi al proprio asciugamano, come un bimbo al legone della madre. Ho imparato a mie spese che in sauna è meglio guardare gli occhi e non il resto, per evitare di vedere cose che non fanno bene allo spirito. In sauna però oggi gli occhi non mi bastano. Seduto con eleganza sull'ultimo ripiano di legno, con belle spalle dritte e gambe lunghissime, c'è l'uomo più bello del mondo. Ha tra i 50 e i 55 anni, capelli corti, ricci e bianchissimi. Occhi azzurri brillanti che spiccano su un viso delicatamente abbronzato. Sorriso accennato ma delizioso. Io mi sistemo in modo da fingere concentrazione sul mio riposo e continuare a guardarlo, ma dopo un po' lui si alza. Il legno scricchiola appena sotto il suo movimento. Apre la vetrata con garbo ed esce nel prato innevato nudo, senza asciugamano. E lì saldo sui piedi come un guerriero vichingo prima della battaglia e imperturbabile come un filosofo greco davanti alla morte, incomincia a spalmarsi di neve. Allora, è passato un po' di tempo. perciò io lo vedo così nel ricordo. Per me era veramente bellissimo, il ricordo che ho proprio pensato questo è l'uomo più bello al mondo, perché era perfetto, con questi capelli bianchi, pur essendo non così anziano, aveva tra i 50 e i 55 anni, ma aveva dei capelli bianchi stupendi e perfetti, sembrava quasi finto. Questa abbronzatura completa, un fisico meraviglioso, di una calma, di una serenità, da questo sorriso, ripeto, è quasi sembrato una visione. Mi sono poi domandata se era vero o se avevo sognato tutto, ma direi che era vero invece. In sauna la temperatura aumenta, o forse sono io che ho questa impressione. L'odore di pino del legno è sempre più forte. E io rimango inchiodata alla mia panca e cerco di non pensare a niente. A chi ero prima, alla moglie che non sono più, alla madre che per fortuna sarò sempre e alla donna che continuo ad essere. Lui è bellissimo, alto e magro il giusto, senza pancia, un sedere non troppo tondo ma disegnato alla perfezione, sodo, senza la classica sagoma bianca delle mutande così deprimente, come se fosse abituato a girare sempre senza vestiti. Penso che ora mi alzo e lo raggiungo. Penso che ora lo bacio lì, nella neve, davanti a tutti. Penso alla storia d'amore che sta per iniziare. Penso che è ora di smettere di piangere. Penso che vale la pena darsi un'altra possibilità. Penso che è una fortuna avere un'altra possibilità. Let's go underground, where we can't be found, and forget all the bad things that's around us. Can't you see there's nobody else here? So take off your cool, then your blues, then your shoes. La la la. Bicicletta Donata nella foto che ci ha mandato, è in bicicletta su una strada di montagna, direi, è una mountain bike, quindi è una bicicletta seria, ma non è questa la particolarità, è che alle sue spalle c'ha un carrettino, direi, sì, non so, forse un po' dialettale carrettino, però un carretin, un piccolo carretto a due ruote collegato alla bicicletta dove non si vede cosa c'è, e allora lo chiediamo direttamente a lei al telefono. Pronto Donata? Pronto Matteo, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie, abbastanza bene. Partiamo dalla foto, perché in questa nuova versione di Voi Siete Qui abbiamo anticipato la foto, così abbiamo anche la possibilità di chiedere agli ascoltatori poi, perdonami, agli autori della storia in diretta qualcosa di più. Che cosa c'è nascosto in quel carrettino dietro la tua bicicletta? C'è il mio cane, Marta, che era un Golden Retriever, perché la foto è di qualche anno fa, è del 2010. Sì. E adesso Marta non c'è più, e lei però era già piuttosto anziana, perciò le passeggiate un po' lunghe, soprattutto quelle in salita, non riusciva a farlo, aveva il cuore un po' debole, perciò la mettevamo in questo carrettino, ce la portavamo in passeggiata con noi, poi quando arrivavamo scendeva, in genere arrivavamo a un lago, lei piaceva fare il bagno nel lago e nuotare, quindi lei nuotava e lì non faceva fatica e poi ritornava indietro sul carrettino. Quindi insomma il mistero del carrettino è svelato, c'era il cane sul carrettino. Dog trailer, per proprio dirlo. Dog trailer, ti ringrazio, effettivamente caritin, mi viene in mente subito il caritin di mia nonna. Donata, innanzitutto grazie per questa storia, perché questa storia, lo dicevo anche prima, ha veramente a che fare con la possibilità di godersi un momento che arriva e poi probabilmente se ne va. Vabbè, diciamo, qualcuno l'ha detto meglio di me, no? La solita questione del cogliere l'attimo. Però di fatto non è così facile, diciamo, non è proprio così immediato cogliere le possibilità che abbiamo di fronte agli occhi, soprattutto se sono fuggevoli e se sono anche remote per certi versi. Lì non era remotissimo, perché eravate in uno spazio unico. Però tra l'altro tu fuori onda mi dicevi più che godermi l'attimo era tornare a godermi degli attimi. Sì, è proprio da qui che è partito, cioè ritornare a a godere gli attimi, a capire che la situazione in cui ero, di separata, recente separata, non era solo una situazione di dolore, ma poteva essere anche un'occasione, come dico nel racconto, una possibilità, quindi riuscire di nuovo a godere delle cose, di quello che mi capitava nella vita. E quindi questo incontro, così, questo incontro fuggevole mi ha fatto capire che ero pronta a rigodermi ancora le cose. Devo dire che, tra l'altro, soprattutto i maschi tra studio e regia, io, Pietro e Tiziano, mentre leggevo un racconto, diciamo, ma questo qua, ma ammazza, è statuario, e c'ha i capelli, e c'ha i glutei colorati, e c'ha la faccia. Va bene, mi tengo questo come spiegazione del tutto. Vi siete rivisti, vi siete un po' frequentati, è finita lì? No, in realtà no, purtroppo, però ripeto, mi è bastato anche questo, il fatto su questo vichingo così bello, in realtà magari non lo era neanche così bello, ma in quel momento a me è passato così, e questo era, e devo dire anche a noi, Donata, cioè a questo punto anche noi lo immaginiamo, come gli mancano veramente solo il cappello con le corna e scendere da una nave che arriva dalla Svezia. Donata, ma aveva, non gli sarebbe stato bene, perché aveva in sé anche una delicatezza particolare, per cui non me lo vedo con quel cappello. Niente, di là in regia continua a dire, solo la parte maschile continua a dire, però questo ha a che fare appunto con un po' con la sicurezza che gli uomini portano con sé. Donata, che cosa fai nella vita? Io faccio la copywriter in una piccola agenzia di comunicazione. Sei una pubblicitaria? Non proprio, sì, no, è vero, però non facciamo proprio grandi campagne pubblicitarie, ma scrivo più testi normali per dépliant, brochure, cataloghi, cose del genere, ecco, non pensare alla grossa campagna. In questo momento sto facendo, per esempio, la redazione di una grammatica, quindi io lavoro un po' diverso. Cosa vuol dire, scusami, la redazione di una grammatica? Una grammatica che verrà stampata una seconda volta a distanza di anni, quindi va corretta, modificata, io inserisco queste modifiche, è proprio un lavoro di redazione. Ok, ma scusa Donata, io faccio sempre un po' di ricerca riguardo alle persone che poi vengono al telefono con me, e sei tu l'autrice di questo libro che si intitola Allegra? Ah, ok, perfetto, temevo che ci fosse un'altra Donata. E... No. Questo, la parte di scrittrice ha a che fare con una parte nascosta, con una parte legata a qualcosa che non vuoi raccontare? No, non necessariamente. È il mio primo romanzo, sempre scritto da una vita che scrivo, ma appunto per lavoro, e alla fine l'anno scorso ho scritto anche questo Allegra, forse anche portata dal racconto che ti ho mandato. A seguito di quello ho poi scritto anche questo romanzo. Dove vai in vacanza per le prossime ferie di Natale? Non si sa, non ho ancora deciso, non credo in Engadina. Ormai con l'Engadina hai chiuso. No, ci torni. Chiuso, no, quest'estate qualche giorno ci siamo tornati, però non è più la mia vacanza, diciamo ideale. Non ho ancora pensato alle vacanze di Natale, appena chiuso queste ci penseremo. Va bene. Ho qualche sogno, ma è un po' presto. C'è tempo. Donata, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata e soprattutto per il racconto e per l'opportunità che ci hai dato di raccontare questa parte legata al piacere, al momento che fugge. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te, buona giornata. Ciao Donata, ciao, grazie. Ciao. Ed eccoli qui che arrivano tutti i messaggi. Tiziano, io ho la sensazione che noi dovremmo fare una versione di Voi siete qui tipo notturna, fai conto, verso mezzanotte, che si chiama Voi siete qui hot, o Voi siete qui red, sai quei titoli beceri, la roba, in cui si raccontano solo storie d'amore, però più che d'amore un po' spostate più verso il sesso che verso l'amore, un po' come si chiamava quel programma? Io quando ero ragazzino ascoltavo sto programma su Kiss Kiss, come si chiamava quel... Pippo Pelo, ma è ancora in giro Pippo Pelo, facciamo Candy Candy, ma non ero l'unico ad ascoltarlo, anche Tiziano Molini, Pietro La Corte? No, Pietro La Corte dice di no. Vabbè, quella lì era una roba in cui facevano intervenire gli ascoltatori. No, noi facciamo la roba nostra, però di storie un po'... Come... Ti ricordi, c'era una linea Harmony. Ti ricordi gli Harmony? C'era la linea Harmony che era partita come storie d'amore, melodramme, d'amore. E poi c'era stata... C'era la linea Harmony rossa, che aveva la copertina rossa, e che era esattamente di storie un pochettino più hot, diciamo. 349-238-6666. Giulia mi scrive: la storia di oggi è straordinaria, soprattutto perché non siamo abituati a sentire così apertamente una donna che abbia voglia di godersi il momento che sta vivendo senza paura di raccontarlo. Mi ha fatto venire voglia di andare in sauna questo pomeriggio. E ancora Sergio: dovevo giocare a tennis con un amico che mi tirò il bidone. Al circolo quel giorno c'era una maestra con un'ora libera e le ore diventarono più di una. Ci ragioniamo su questa cosa della versione notturna di Voi siete qui. Per intanto io ringrazio Tiziano Bonini, Pietro Lacorte, Margherita Hina e soprattutto Donata, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Vittorio di Treviso e la storia di domani è la mia. Parlerà di incontri urbani. Questa è la mia storia e io sono qui.